Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 10 del mattino alle 8 minuti e 57 secondi in diretta qui dagli studi di una assolatissima Milano meravigliosa. Non si vede nulla, Oscar, non si vede più nulla, neanche il sindaco. Stavo cercando il sindaco, non l'ho trovato. È sempre col pregiudizio politico. Se inizi subito, non si vede nulla, il pessimismo, il gufismo. Ma dai, un pochino. E oggi c'è una meravigliosa giornata, dopo una notte in cui c'era una splendida luna. E io sono ottimista, come vedete. Allora, no, al di là di tutto questo, eccoci qua, i compari dei conti della Belva, Oscar Giannino, che vi saluto e vi ringrazio. L'avete già sentito. Carlo Alberto, Carnevale Maffè e Mario Seminerio. E Renato Cifarelli ci raggiunge. Aggiungerà più tardi in collegamento perché lui rusca in impresa oggi, quindi farà solo la rubrica finale. Allora vi dico subito per intervenire 800 24 00 24, chi vuole allietarci con le sue puntute opinioni dopo aver sentito le nostre altrettanto puntute, di che cosa si parla oggi, così potete decidere se intervenire. Ve lo dico subito, una grande questione, rispondete, dateci la vostra opinione sull'argomento dei referendum in arrivo promossi dalla CGIL sull'articolo 18 del Jobs Act. Poi ci sono altri due quesiti, uno per l'abolizione dei voucher e un altro per la corresponsabilità di appaltatore subappaltatore nella disciplina appunto degli appalti per quello che riguarda i contratti di lavoro. Ma l'interrogativo fondamentale, quello più esplosivo di tutto, è tornare o meno alla vecchia disciplina dell'articolo 18 con la reintegra giudiziale, o meglio, la CGIL non propone neanche di tornare alla vecchia, propone di estenderla ai 5 dipendenti. Quindi c'è anche un problemino, perché la Corte Costituzionale, qui i costituzionalisti si dividono, c'è chi pensa no, verrà sicuramente bocciato, più trochino, ci sono altri che dicono no, la Corte fedele all'interpretazione per cui il referendum è solo abrogativo, leverà una parte del quesito, quella con Italia in colla, appunto. Ricaverebbe come effetto, un effetto creativo e non abrogativo, quello di tornare sì alla vecchia disciplina, ma non più per i 15 dipendenti, insomma dai 5 in su. Però insomma, voi siete dell'idea che questi referendum A vanno fatti, B meglio andare alle elezioni piuttosto che non farli, per paura ovviamente del voto elettorale, come ha detto Poletti, e nel merito siete per tornare alla vecchia disciplina rigida, vincolistica, oppure pensate che i milioni di contratti tutele crescenti in realtà sono incardinati su un principio giusto, cioè quello dinamico delle tutele nel tempo, e in parallelo a una cultura nuova per cui il lavoro non si difende dov'era e com'era a vita, ma si tenta invece di difenderlo dove si crea, in maniera tale da incentivare il dove si crea e con riformazione permanente. Allora, questa è una questione centrale, ma noi non ci occupiamo solo di questo oggi, ci occupiamo anche della grande vicenda che sta appassionando un bel po' di italiani anche fuori dagli addetti ai lavori, e cioè la vicenda tra Vivendi di Bolloré e la Mediaset di Fininvest Berlusconi. E vi diremo la nostra su una vicenda che ha il rischio in Italia, come sempre, di risolversi a una questione di bandierine nazionali, mentre sullo sfondo c'è un'enorme questione che da anni vede i protagonisti del settore della produzione di audiovisivi, dell'industria televisiva, delle telcos, delle società telefoniche, chi raccoglie la pubblicità, insieme tutti i soggetti di questo mercato, realizzare giganti sempre più mondiali, e sullo sfondo c'è poi la sfida di coloro, gli over the top, che in realtà sono quelli che controllano il più del mercato mondiale dei video a pagamento, e tenteremo quindi di distinguere come al solito due cose. Ma al di là di questo, cari compari, ci sono tante altre questioni, un'Italia che perde pezzi a Roma, a Milano, infatti. Che cosa vi hanno colpito oltre a queste due cose? Naturalmente cominciamo poi tra pochissimo con la consueta rubrica di Mario per fare un po' di punti su come sta andando l'economia italiana internazionale, ma al di là di questo, Carlo Alberto. Devo dire che sono abbastanza preoccupato del fatto di non avere un'autorità di controllo dei mercati. Ne parleremo dopo con Vivendi, ma insomma devo tornare su un tema bancario, devo tornare su un tema assicurativo. Senza la certezza della legge, e mi riferisco ovviamente al presidio che Consob deve garantire, anzi dovrebbe, scusa il condizionale, garantire alle regole del gioco del mercato, altrimenti, mancando quella, caro Oscar, ovviamente si sbracca tutto in una polemica ideologica. Questo lo riprenderemo poi per Mediaset, però è molto importante capirlo. Soprattutto nel momento in cui il popolo chiede il partito etico, il movimento dell'onestà, e poi scopre, come è normale nell'antropologia politica, che non ci sono partiti onesti, movimenti onesti. Ricordo il PC degli anni Ottanta, ve lo ricordate, con l'antropologia della diversità la questione morale di Berlinguer, no? Vediamo poi come è andata a finire, corsi e ricorsi storici, l'Italia che torna a chiedere un'onestà dall'alto, quando in realtà bisogna pretendere molto più umilmente, ma molto più rigorosamente, lo Stato di diritto. Che dici, Mario? Ma a me ha colpito un paio di cose. Allora, la multa, la mega multa dell'antitrust data all'Automobile Club, 3 milioni di euro per non aver rispettato il codice di consumo, che stabilisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per il pagamento, diciamo, con carta di credito o bancomat. Addirittura per il pagamento tramite sito dell'ACI era prevista una maggiorazione dell'1,2% senza limite di prezzo, cioè senza limite del valore del bollo. Del bollo, sì. No, che è geniale. Mentre se si pagava col bancomat, diciamo presso le delegazioni ACI, c'era questa gabellina fissa di 20 centesimi. Sì, perché noi incentiviamo il digitale, capisci, Mario? No, esatto, e questo è l'unico, almeno che io sappia, l'unico paese sviluppato sedicente tale dove praticamente la digitalizzazione è più onerosa del servizio, come dire, brick and mortar, cioè quello fatto attraverso gli sportelli fisici. Tu sai che anche i servizi di posta a lungo tempo si ispiravano allo stesso principio. Se andavi su internet, siccome vuol dire che disintermediavi occupati, disintermediavi la forza dell'umanità, esatto, e quindi dovevi pagare, esatto, di più. Noi comunque di questa cosa noi ne abbiamo sempre parlato, ne parlava Carlo Alberto, no? Quando si parlava delle banche dati, l'interconnessione, cioè c'è una resistenza umana alla digitalizzazione spinta, perché serve a proteggere, diciamo, le posizioni esistenti, il che, voglio dire, non depone bene per le magnifiche sorti e progressive del paese che starebbe cercando di digitalizzarsi. A parte questo, una piccola nota di economia internazionale, visto che di domestico c'è poco, ma lo vediamo tra poco. Dunque, il Brasile, qualche settimana fa, il famoso presidente usurpatore Michel Temer, che è subentrato alla impicciata Dilma Rousseff, quindi non è stato eletto dal popolo, ha capito che i conti pubblici brasiliani sono in una condizione non particolarmente brillante. Per cui, visto che una gran parte dei loro cosiddetti diritti acquisiti è incastonata, o più propriamente incistata, nella Costituzione, ha fatto passare un emendamento costituzionale in base al quale per 20 anni la crescita reale della spesa pubblica brasiliana, cioè al netto dell'inflazione, deve essere pari a zero. Ora, siccome il grosso della spesa pubblica è relativa alle pensioni, e siccome in Brasile si va in pensione ad un'età media che è intorno ai 54-55 anni, adesso sta per arrivare in Parlamento la proposta di riforma. Sono 65 anni per tutti, con una progressiva introduzione per gli uomini che hanno almeno 50 anni ad oggi e le donne che ne hanno almeno 45. Allora, l'unica considerazione che mi viene da fare è che, come potete vedere, l'euro ha creato guasti anche in Brasile, dove, malgrado ci sia una moneta sovrana... No, ma ieri l'ho fatto questo tweet, qualcuno non l'ha capito. Io ti stavo dicendo che poi mi prendono sia sul nella serio. Parte scritta che nella parte... Tu continui a dirlo e ti prendono per un batto. Sì, esatto. Cosa vuoi che ti dica? Hai visto mai che magari riesco, come dire, a salire a incarichi pubblici se mi si piglia per un matto? No, adesso non fare battute sui ministri e le ministre e così via, per favore. No, vabbè. Non facciamolo, diciamo che questa settimana sorvoliamo in maniera... A proposito di multe internazionali, c'è anche una nota banca italiana, ha preso 250 milioni di multa. Poi mi dispiace perché anche lì un po' il mito della purezza viene di ridiscusso, però bisogna segnalarle queste cose, no? Visto che abbiamo bastonato... No, però a quel punto bisogna dire anche di che banca si tratta. Prego. Banca Intesa. Ahimè. Regolatore statunitense. Esatto. Adesso diremo che è un complotto americano contro le banche italiane, dopo quello tedesco e quello francese. Per cui va bene. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci. conti della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qui, tornati in diretta, caro Mario e caro Carlo Alberto, la rubrica in cui facciamo inizio della trasmissione, il punto sulle novità italiane e internazionali. Direi che insomma di cose macro non ci sono, no, però ci no. sono un pochino di sviluppi però che riguardano alcune vicende italiane, tipo le banche e così via, su quale sì. svolgere qualche considerazione. Da dove cominciamo? Sì, diciamo, cioè Montepaschi è riuscito a riaprire con l'assenso della Consob l'offerta per la conversione dei subordinati in azioni. Dopodiché vediamo, poi hanno anche apprestato l'aumento di capitale, nel senso l'hanno predisposto, e le linee di fido per la cartolarizzazione delle sofferenze. Che dire, speriamo bene, perché la situazione così sta durando da troppo tempo, anche se ho come l'impressione che siamo prossimi all'ultima curva. Più che altro i problemi ci sono, come indicava la stessa Banca Centrale Europea, no? Montepaschi ha avuto deflussi di liquidità piuttosto rilevanti, e questi sono dati pubblici. Posso dirvi una cosa? Non avete idea, nel giro di 24 ore, da che sono usciti i dati, solo 24 ore, poi le aggiornate, le agenzie e così via, sulla perdita di clienti, di depositi, di MPS, l'effetto slavina che questo ha provocato con le lettere di chi invece ha mantenuto i soldi in MPS e che scrive a noi, a Radio 24 o al Sole, dicendo: cosa dobbiamo fare? Dobbiamo levare tutto, eccetera, eccetera. Io rispondo tutti educatamente, così come faccio adesso. Però dove, adesso vi rendete conto? Cioè, dove stava? Io non mi finisco mai di sorprendere, no. Con pieno rispetto per tutti. Cioè, c'è gente che scende improvvisamente dal pianeta non so quale. Sì. È una vicenda aperta da anni e anni, cari clienti depositanti di MPS, vedete voi, ecco, io non arrivo a dirvi prendete decisione, perché ovvio che no, la banca, lo abbiamo ripetuto mille volte, produce reddito operativo, certo ha le condizioni di liquidità in cui opera, sono diventate un po' più preoccupanti. Di ieri la notizia, la nota ufficiale era: abbiamo provvista per 28 giorni di operatività, ecco. E anche le Venete, ecco. Sono in una, quello però si sapeva. Invece abbiamo visto in settimana che Unicredit si è presentato con i dettagli di questo mega aumento di capitale. Che e ha dato un ceffone ad Atlante, se possiamo dirlo. Con le sofferenze. Sì. Fermare l'asticella al 74,5% vuol dire che tutte le pretese di fissare un prezzo politico alle sofferenze sono state spazzate via da una decisione coraggiosa. Al limite del provocatorio, però dal mio punto di vista competitiva, ok, perché a quel punto è su quello che si misura anche il posizionamento di una banca, di dire: signore, noi ci copriamo fino al 75%, se voi volete stare 10 punti sotto, buona fortuna. Buona fortuna. Però sapete qual è la cosa, secondo me, interessante che ha fatto Unicredit? Loro creano due società ad hoc, una con Fortress e una con PIMCO, per la gestione delle sofferenze. Dentro queste società Unicredit ha una partecipazione di minoranza, 20%, quindi loro hanno praticamente destinato la quasi totalità dell'aumento di capitale a coprire questo aumento degli accantonamenti a sofferenze, però loro non si può dire che hanno svenduto queste sofferenze, perché loro presidiano a valle le società in cui si trovano in quel contesto, e praticamente se queste sofferenze risulteranno essere svendute o vendute, come dire, ad un prezzo estremamente conservativo e dovessero quindi essere realizzate con forti plusvalenze, Unicredit è pronto a intercettare queste plusvalenze, perché è nella società a valle di gestione. Quindi un'operazione è molto ingegnosa. Il mercato ha reagito abbastanza bene, penso che abbia reagito più ai tagli che a queste notizie, però ha reagito bene perché comunque ha capito che Mustier, che ha venduto quasi tutto quello che poteva vendere in poche settimane, capisco, quando la mongolfiera scende devi buttare giù qualche pezzo di roba che magari non è zavorra ma è roba buona. Però devo dire, io ho trovato una banca che sta reagendo con una scelta strategica abbastanza forte e chiara, e fatemi dire, pur conservando un perimetro europeo, difendendo almeno l'area germanica del suo territorio. C'è da dire che come ha detto Mustier pubblicamente, loro vogliono fare la semplice banca commerciale. Ha ribadito il concetto di semplicità anche nella struttura organizzativa. come dire, welcome, nel senso che, cioè, dopo tanti anni di costruzioni barocche e quant'altro, abbiamo scoperto che è possibile teoricamente tornare a fare la banca commerciale perché c'era troppa complessità. Ciò non di meno, a fine dell'arco di piano, cioè nel 2019, il return on tangible equity, quindi la redditività del capitale proprio tangibile, è prevista del 9%, sì, sì, certo, che è comunque inferiore al costo del capitale. Certo. Quindi le banche, pur in questo titanico sforzo di ristrutturazione per rimettere la barca in linea di galleggiamento, continuano a distruggere valore. Esattamente. E questa è la riflessione che tutti dovremmo fare, sulla quale dovremmo soffermarci. Purtroppo il capitale costa di più, ne serve il triplo, il quadruplo, il quintuplo di prima, la redditività operativa scende, mi spiace, ma dai tempi di Fra Luca Pacioli non ci sono molte strade alternative. No, ricordiamo ai nostri ascoltatori che continuiamo a essere un paese nel quale sì, adesso si inizia un ridimensionamento con i piani industriali, però voglio dire, abbiamo un numero di agenzie filiali bancarie per 100.000 abitanti che è doppio rispetto a quello degli asili nido. Da dice tutta, questo è l'indicatore che già sempre. Non sono numerosissimi. Esattamente, siamo in questa condizione qua, questo spiega perché il reddito operativo delle banche è in condizione di tensione a lungo ancora. Comunque, nel nostro paese. Comunque Oscar, quindi che cosa ci insegna questa vicenda? Una cosa su tutte, che non è vero che in Italia c'era un fallimento di mercato sulle sofferenze e che non esiste un mercato delle sofferenze. È un'altra cosa che non esisteva, cioè adeguati accantonamenti da parte delle banche, che per anni hanno sottoaccantonato il valore delle sofferenze, adesso sono costrette a rincorrere e alcune rischiano di andare a gambe all'aria. Questa è la triste realtà. Conosci la tesi del regolatore italiano, l'autorevolissima Banca d'Italia non ha fatto altro che ripetere, i vertici dell'ABI non hanno fatto altro che ripetere che gli accantonamenti erano più che congrui, erano i più elevati di quelli di miglior qualità in erano tutta sovragarantiti Italia, eccetera eccetera eccetera. Cari ascoltatori, se fosse vero tutto questo, mi spiegate perché adesso che non c'è più il governo Renzi, giovedì della settimana prossima l'intero sistema bancario aspetta in ginocchio, confidente, con cuore più aperto e più speranzoso di quanto non si avvicini al Natale, un decreto del governo con dentro, c'è chi dice da oggi, non più 95 miliardi come c'era stato presentato tra somme a disposizione per garanzie e rilevare inoptati degli aumenti di capitale 15, bancario, 15 più 80, sì. Questo sì, doveva sì, essere sì, la sì. cifra, no? Sì, sì. Alcuni dicono che sarà oltre 100 miliardi, oggi per esempio sul Fatto Quotidiano trovate una cifra che diventa 117 miliardi, questi 117 o 95 autorevolissimi regolatori del mercato italiano, dissipatori di fiducia, mentre invece spargevate solo convinzioni sui clienti italiani e risparmiatori che erano tutelati dal più ferro, dal più granitico, dal più acciaioso sistema di garanzie di un sistema bancario della cui, ma per carità, inoppugnabile qualità voi per anni avete spergiurato, andreste portati a risponderne in un paese civile, quale per vostra fortuna noi non siamo. Questo è il punto di fondo in sintesi. Sapete perché mi piace anche questa bella manovra, i 17 miliardi e i 13 miliardi tra liberazione con l'accortezza che ha detto Mario di NPL, di Unicredit e aumento di capitale, perché ridimensiona coloro che nella governance societaria, nel controllo di quella banca, come nel resto del sistema bancario italiano, hanno delle responsabilità storiche per aver detto una cosa e fatto un'altra, i signori delle fondazioni bancarie. Lo dico a voce piana, perché sennò poi Guzzetti e Bazzoli si arrabbiano. Sì, ma rischi che non sentano, alza la voce, perché a quell'età no, sai com'è. No, loro sono abituati a parlare con la voce così quando ti chiamano a telefono, quindi lo sanno benissimo che si parla così. Ecco, posso dire, mi piace anche per quello questa cosa di Unicredit. I miei compari stanno ridendo, facendo toc toc col dito, perché dicevo, questo Giannino è matto, però sapete com'è. No, lo sapevamo prima, Oscar, non è che ma lo dai, quel le... decreto di cui tutti sono in arrivo e che è in arrivo a parte del governo è veramente il calcio migliore a tanti anni di chiacchiere che sono andati per la maggiore con i miei autorevolissimi colleghi che mi dicevano, quando la finisci di fare il provocatore si vede che non hai la laurea, non capisci nulla. Ma, prego, ma no se, ma una cosa, avete notato che il no al referendum, secondo alcune interpretazioni, ha causato tutto il contrario di tutto, perché ha fatto sparire il fondo sovrano del Qatar, ma addirittura ha lanciato il più grande assalto al patrimonio italiano. I francesi, dopo il no al referendum, hanno lanciato le truppe e ci stanno invadendo. Va bene, è bellissima questa cosa. Questa si legge in due schieramenti opposti. Italia in svendita da parte dei sovrani sovranisti, e dall'altra parte il buon Renzi. Avete ieri visto ho cosa è successo? Uno scambio di battute tra te e Claudio Borghi sul tema. No, io non ho fatto nessuno scambio. Ma no, ma non ne ho fatti alcuno scambio. Smentisce, scambio di battute, ma lo dico benevolmente. E quale? Dopo, perché tu dicevi su Twitter, appunto, improvvisamente in poche ore, in due giorni, la Francia e non più la Germania, e Claudio Borghi diceva: ho creato dei mostri. E io stavo quasi per rispondere a Trump, avete ragione entrambi. Poi però mi sono guardato perché volevo evitare poi di sembrare inopportuno. Comunque guarda, ti comunico in tempo reale che qui c'è un sovranista su Twitter che ha detto che noi tre stiamo facendo dei danni enormi. A noi tre, stiamo facendo dei danni enormi. Il problema, però, guardate, come mi è già capitato in passato, arriva il giorno che prendo uno di questi da tastiera dietro l'anonimato che loro credono essere tale e tale, non è, e lo scuoio. Lo scuoio, si separeranno piangenti da magna pars del loro patrimonio. Occhio, credevo che da magna pars del loro epitelio. Quando finiamo di scherzare, poi facciamo i fatti. Dai, su, ci sono già abbastanza guai. Milano, Roma. Posso dire che considero anche per me gravissimo, e qui concludiamo, poi torniamo tra un minuto e iniziamo a parlare di Vivendi Mediaset, i 9 concorsi per le selezioni degli allievi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare, della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di Porto. 9 concorsi nazionali su cui indaga la Procura di Napoli, perché sono tutti pilotati per amici degli amici. Allora, se il fulcro della credibilità e della dedizione della Repubblica, cioè le forze dell'ordine e le forze armate, fin dall'inizio del meccanismo di selezione, sono intossicate dalla corruzione e dalla truffa, voi capite, cari ascoltatori, che il problema resta endemicamente diffuso nel nostro paese. Io la penso come diceva prima Carlo Alberto: quando c'è una corruzione così endemica, non si può credere che diminuisca cambiando una persona. Non è questo, è una pia illusione, posso anche capirla, ma la realtà dimostra che non è così. Occorre un rispetto delle regole del codice civile prima ancora del codice penale. Per questo servono davvero le autorità di settore credibili. In questo paese non ne abbiamo, e purtroppo però queste cose mi scandalizzano persino di più della vicenda Marra a Roma, che è grave. E io non sono stupito del fatto che la Procura di Milano, dopo un anno e mezzo di vergognosa stasi per via dello scontro tra l'ex capo della Procura Brutti Liberati e Robledo, che il CSMA ha risolto a tarallucci e vino, peggio che se fosse una questione di corrente di partito, tanto per dire anche che pure loro meritano dei bei ceffoni, gli autoregolatori della magistratura. Però per quello che conosciamo della differenza incredibile tra aggiudicazione nelle gare d'appalto e costo finale di molti degli appalti di Expo 2015, non sono sorpreso neanche dall'avviso di garanzia Sala, perché anche lì non ha funzionato quasi nulla di quello che si prometteva funzionasse con criteri di trasparenza. Oimè, non cambia con le persone una cosa di questo genere. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita e la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio, 10:35 primi, 36, con i compagni di Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E ci ha raggiunto per questa prossima mezz'ora in cui parliamo, tentiamo di mettere a fuoco che cosa sta davvero avvenendo tra il finanziere Bretton e Bolloré da una parte, la sua Vivendi, e Mediaset di Fininvest, quindi gruppo Berlusconi, e con Augusto Preta, che è economista, analista di mercato e che è fondatore e anche amministratore di T-Media Consulting. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Allora, Carlo Alberto, dai una tua sintetica impressione, io lo faccio più avanti invece, di qual è la tua opinione su questa vicenda? Guarda, la mia opinione è molto vicina a quella che ha scritto Augusto, cioè che ci sono due piani, un piano di mercato e un piano di settore industriale. Sul piano di mercato, cioè di regole, quello che sta succedendo è veramente problematico, perché è un'operazione aggressiva e molto discutibile. C'è un altro piano invece di natura industriale, dove invece i destini sono ampiamente segnati. Allora vorrei chiedere ad Augusto proprio di commentare questi due piani. Che cosa succede sul piano industriale, cioè telecom, media, il settore italiano, europeo e mondiale, sta andando in quella direzione o è un caso assoluto, è una cosa strana? Dall'altra parte, le regole del mercato, che cosa dicono le regole per comportarsi in questo senso? Ovviamente sulla prima sono più preparato, però diciamo che fondamentalmente quello che è avvenuto prima, diciamo, della rottura è esattamente quello che sta accadendo a livello mondiale. Solo per darvi un'idea, Netflix investe nella produzione di contenuti 3 miliardi e mezzo di dollari. Questo significa che chi oggi vuole competere su questo mercato, che è quello dei contenuti premium, ma è anche quello, diciamo, delle produzioni seriali e di intrattenimento, deve investire risorse che nessuno degli operatori europei oggi è in grado di portare. Quindi evidentemente, se si vuole competere con questi soggetti, la stessa Amazon eccetera, bisogna consolidarsi e aumentare il proprio peso specifico. È quello che ha fatto Sky nei mesi scorsi, creando un'unica società, e oggi c'è anche l'ipotesi di Fox, che appunto che acquisti la stessa Sky, che opera sui mercati tedesco, inglese e italiano. Allora, evidentemente il senso industriale dell'operazione è chiaro, cioè creare una major europea che possa competere con questi soggetti a livello internazionale. Per far questo non bastano poche centinaia di milioni di investimento attuale, ma bisogna arrivare a quei miliardi di investimento di cui parlavo. Quindi, sintetizzando, credo che questo sia un po' il senso, e questa è anche la ragione che aveva portato a stipulare quella cosa. Però c'è un altro tema oltre ai miliardi: processi organizzativi, cultura, competenze. Bisogna non soltanto spendere sui contenuti, ma investire sulla relazione con gli utenti, sulla loro profilazione, sull'uso delle piattaforme digitali non come mera logica di distribuzione, ma come logica di dialogo. Bisogna integrare i social. Ci sono tante cose da fare, Augusto, non soltanto accentrare l'economia di scala, ma bisogna anche imparare a interagire come hanno insegnato al mondo i vari Google, le varie Twitter. Ma infatti, soltanto che appunto tu mi insegni, Carlo Alberto, che se tu hai 60 milioni di abbonati e cominci a profilare il tuo pubblico, lavorare con i nati e capire meglio come funziona tutto questo mercato, avere, diciamo, dei prodotti che si proprio adattano e si adeguano a quelle che sono le tue caratteristiche, le tue esigenze, quindi, come dire, non investi in qualcosa di cui il tuo pubblico non ha bisogno, mentre investi solamente in quello in cui ritieni che il tuo pubblico possa avere la massima soddisfazione. Questo richiede investimenti enormi. Tutto il tema dei big data, della profilazione degli utenti, come sai meglio di me, è il grande tema di questo momento. Quindi questo lo fa Netflix, lo fa Google, lo fanno tutti i grandi operatori, e lo dovranno fare, ma avendo più dati, più elementi su cui lavorare anche questi altri soggetti nostrani. Quindi, diciamo, vogliamo dire che Vivendi, che sta facendo una cosa molto aggressiva, magari adesso poi commentiamo nel merito delle regole del gioco che non sono state rispettate o che probabilmente non sono state rispettate, ma vogliamo dire che Vivendi A se l'è scelta Mediaset, B sta facendo insieme a Mediaset un passo in una direzione ineludibile, visto che questa è la strada del territorio. Secondo punto, le telecomunicazioni, qui devo chiederti l'altro lato, no? Cioè quello infrastrutturale, entrano in questo progetto le capacità di billing, come si dice, cioè di imporre o comunque di esigere una tariffa mensile, media, sono elementi importanti nel reggere il business case di una media company domani, quello che sta succedendo in America sostanzialmente? Sì, sì, è soltanto che qui però bisogna capire poi qual è il modello, cioè se alla fine il contenuto diventa l'essential facility per fare il billing, quindi attraverso questo aumentare il traffico, se invece il contenuto è il driver, diciamo, del processo. Quindi se io guardo a BT, evidentemente BT Telecom nel Regno Unito, vedo che investe miliardi di sterline sui contenuti, sui diritti premium, sullo sport, ma poi tutto questo non è che gli serve per aumentare le revenue, diciamo, sul contenuto specifico, gli serve per aumentare il traffico e per avere diciamo, bollette più alte e più consistenti da spendere nei confronti dei rivali. Quindi sul modello di business tra telco e media io ancora non ho capito bene, diciamo, come l'integrazione possa avvenire, cioè qual è il driver dei due, cioè se in realtà è un processo guidato dai contenuti, dai media, o se invece è un processo, diciamo, di massimizzazione del traffico, quindi con altre caratteristiche. In entrambi i casi comunque è un dialogo che deve svilupparsi, probabilmente è un mix tra queste due cose. Ecco, invece rispetto all'italianità ci dici qualcosa, perché il governo ha detto una cosa, diciamo, interessante, che i media sono un settore strategico. Che cosa vuol dire tutto questo? Intanto qualcuno magari mi spiega cosa vuol dire settore. Mario, tu lo sai, vero, che cos'è un settore strategico? Ah. Non, Oscar, Augusto, che cosa pensi del commento del ministro Mario, del ministro Calenda? Guarda, io come sai mi occupo più, diciamo, delle strategie industriali che delle... Ho capito che non ti vuoi sbilanciare, sbilanciati, no, Augusto. No, voglio dire che, diciamo, l'italianità, come dire, non è un termine che mi piace tanto. Devo tirartelo fuori proprio con le tenaglie, però spiegaci perché, dai, su. Perché i media non sono un settore strategico? Come dire, noi siamo in un mercato globale dove se vengono degli stranieri a investire io dovrei essere la persona più felice di questo mondo. Quindi non capisco per quale ragione noi dobbiamo ribattere su un tema che ci tiene fuori, diciamo, dal contesto internazionale. Esattamente, allora vogliamo ribadire che i media non sono un settore strategico, lo sono per la politica, questo è chiaro, è evidente, che ovviamente perde l'accesso privilegiato al dialogo con i suoi elettori, ma non lo sono per la nazione, per l'economia nazionale, anzi è strategico che i media siano più integrati, più efficienti, più raggiungibili, cioè la strategicità dei media è l'esatto contrario di quello che sostiene, mi dispiace, con tanto affetto, Carlo Calenda. Poi quando si arriva al dunque, vedi, sono tutti liberisti con lo statalismo degli altri, questo. Non dite che non ve l'avevo detto dopo. Però, quindi, sintesi estrema: in un mondo nel quale l'integrazione tra soggetti che fanno mestieri diversi è diventato il drive fondamentale per integrare chi produce contenuti, chi ha grandi factory di format televisivi, di produzioni cinematografiche, A, B, giganti della raccolta pubblicità, C, all the top che sono giganti della rete e profilano i clienti, 4, telco. Su questo è vero, ha ragione Preta, non c'è un solo modello per le telcos nel mondo, cioè abbiamo un mercato come gli Stati Uniti dove nell'evoluzione è chi ha avuto il cavo storicamente, no? A differenza di noi, è ovvio che lì c'è un mercato in cui gli operatori TLC e TV sono integrati verticalmente e fanno il mercato dei video premium, dei video on demand, eccetera eccetera. C'è allo estremo opposto l'Italia, dove invece le telco sono completamente fuori, però persino in Francia, persino in Germania, il livello intermedio di integrazione tra i 4 soggetti, compreso il 4, le telco, è molto forte, in via di evoluzione. Detto tutto questo, quindi la caratteristica di BVND Mediaset è di muoversi in questa direzione per un player europeo, visto che Mediaset c'ha pure Telecinco, che possa avere dietro anche telco, ruolo di Bolloré in Telecom, ruolo di Canal Plus rispetto a Orange, ex statale in Francia, e persino pensando a Telefonica di Spagna, come sappiamo, perché più volte Bolloré ha fatto questo discorso. Il punto qual è? Il punto è che l'accordo di aprile su Premium era un accordo perfettamente definito tra i due. Valutazione dell'enterprise value per quanto generosa di Premium, meccanismo di trasferimento di Premium nel tempo a Vivendi, scambio industriale e scambio di azioni tra i due gruppi, il 3,5% con un range di prezzo sottoscritto in un contratto tra le due parti. A luglio Vivendi dice: butto tutto per aria perché non mi piace, ho scoperto che ci hanno, per così dire, circonvenzione di Ferrari, incapace, ma esatto. Era una punta, allora, quello detto. Però il contratto resta così perfettamente sottoscritto tra i due che addirittura, siccome nel tempo si riconosceva nell'interim prima del trasferimento del controllo proprietario di Premium a Vivendi, si riconosceva il diritto di Mediaset di continuare a esercitare i diritti, tant'è che Mediaset va avanti a rinnovare dei diritti per esempio con Disney, non proprio fesserie, senza che i francesi contestino nulla. A luglio, per milioni di euro, tra a luglio, esatto, a luglio Vivendi cambia strategia. E cosa succede? Succede che ovviamente il corso del titolo di Mediaset scende a 0,2 da 0,5 euro e a quel punto partono le impugnative, ma il contratto resta stabilito ed era un contratto anche sul range reciproco di prezzo riconosciuto, certo, per scambiarsi i ruoli. A quel punto le cose restano così con le impugnative fino a che pochi giorni fa apprendiamo che Vivendi ha in corso acquisti sul mercato secondario di titoli Mediaset e che intende arrivare al 20%. Il corso di Mediaset basso prima, al quale il francese effettua i suoi acquisti per arrivare a superare il 20%, cosa che ha fatto, dipende da le sue dichiarazioni rispetto a un contratto sottoscritto. A quel punto Mediaset in difesa acquista un altro 3%, che invece acquista a prezzo molto più elevato perché è schizzato verso l'alto il prezzo dopo la dichiarazione fatta da Mediaset. Questa roba qui sul mercato britannico, se fossimo con l'FSA, porterebbe l'FSA, l'equivalente della Consob, a dire al signor Vivendi: caro Vivendi, tu puoi acquistare sul mercato secondario tutti i titoli che vuoi di Mediaset, ma sappi che primo, c'è un accordo tra voi, un contratto privato, a quello che mi consta, che, sul quale fino a che non ci si dice con le impugnative chi ha ragione, voi riconoscevate un range di prezzo reciproco e non è quello a cui fai gli acquisti. B, stai facendo gli acquisti per salire a un prezzo più basso determinato dalle tue dichiarazioni. C, io per sì e per no ti sterilizzo il voto, che tu di tutte le azioni che puoi comprare si vedrà, ma intanto te lo sterilizzo. Vuoi un'assemblea? Vuoi un'assemblea per nominare amministratori di minoranza o costituire una minoranza di blocco? Benissimo, caro Vivendi, ma FSA britannico ti ricorderebbe, se fosse lì vigente il nostro codice civile, che l'articolo 2373 si dice che devi stare molto attenta a quel punto a votare in assemblea, perché i tuoi voti, secondo il codice civile, possono essere impugnati e resi nulli perché sei in conflitto di interesse per quello che hai fatto su Premium, quindi stai creando un danno oggettivo a Mediaset se cresci nel capitale e voti all'assemblea di Mediaset. Due semplici punti. Richiamare da parte un regolatore finanziario a l'esigibilità piena di contratti tra privati, l'accordo di aprile, e codice civile, quindi senza né magistrature penali, il colore della bandierina nazionale di cui parla la politica e che non c'entra un cazzo di niente, eccetera eccetera. Ci vorrebbe una banale regolatore di mercato e naturalmente, cari compari, mi prendo la responsabilità di dire che purtroppo la Consob in Italia non è all'altezza di fare queste cose. Evidentemente dipenderà anche in questo dal fatto che io non capisco. Ti seguo, caro Oscar. L'unica cosa strategica di questo paese sono le regole di mercato, ecco, quello è strategico, non la scelta del settore. Augusto, che cosa ci dici di questo? La ricostruzione di Oscar ti risulta? A parte che sicuramente ne sa molto più di me, comunque confermo e sottoscrivo, non ho nulla da aggiungere su questo. Quello che se volete posso dirvi è il motivo per cui Bolloré avrebbe potuto cambiare idea nei 3-4 mesi, ma questo non cambia. No, però intanto dicelo, tra un minuto c'è traffico, poi riprendiamo su questo. Secondo Augusto Preta, qual è il motivo vero per cui ha cambiato idea? Tra un minuto. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Della belva. 10.50, eccoci qui tornati in diretta con Augusto Pretta, economista, analista di mercato, soprattutto nel settore, insomma, dei media e dell'intreccio tra i diversi segmenti della produzione di video, televisione, film, chi distribuisce, chi fa il billing. Ma ci eravamo fermati su un punto con Augusto Preta. Per quale ragione ha cambiato idea, secondo te, Bolloré? Ma secondo me, diciamo che c'è una motivazione di obiettivo finale che sicuramente era quella Mediaset in toto, e quindi diciamo Premium era il passaggio necessario, diciamo, posto probabilmente come condizione per poter poi in prospettiva arrivare a un accordo, diciamo, più ampio. Detto questo, nei successivi 4-5 mesi dall'accordo, su tutta la parte pay TV, quindi su tutta la parte di Mediaset e Premium, sono accaduti 3 o 4 fatti fondamentali. Il primo è che Canal Plus, che era la società di Vivendi, continuava a macinare perdite notevoli. Secondo, c'era una società che si chiama Switchover in Germania che doveva rappresentare l'altro polo, quello tedesco, per lo sviluppo dei servizi a pagamento video on demand in Europa, invece insieme con Infinity di Mediaset e con Canal Play di Canal Plus in Francia. E questa società nel frattempo è stata chiusa perché andava malissimo. Mediaset non ha tolto, diciamo, nessun tipo di come dire, abbonati, non ha inciso con la Champions League come magari si aspettava rispetto a quello che era il modello Sky. L'insieme, la combinazione di questi fattori chiaramente ha fatto capire che, diciamo, l'investimento sarebbe stato molto più oneroso di quello che si immaginava. E diciamo che, insomma, il sottostante della tesi che oggi domina sui giornali italiani, cioè che la strategia sì aggressiva ma di Bolloré sia volta semplicemente a indurre Berlusconi in persona a trattare, ha un sottostante che è relativo proprio al prezzo più pregiato, Carlo Alberto, che sta in pancia a Premium, che per il resto perde soldi, cioè i diritti della Champions. Perché il ragionamento sottostante di Bolloré, che secondo me in questo non sbaglia, è dire: caro Silvio, la realtà è che quei diritti che hanno fruttato poco a Premium, ma voi non ci avete i soldi per rinnovarli quando vanno in scadenza, e se vanno in gara se li prende Sky. Ed è un po' questa, secondo me, una delle cose di fondo che spiega sì, questo singolare atteggiamento. Sì. C'è addirittura chi dice che tanto è vera questa cosa che distingue l'atteggiamento dei manager di prima fila di Mediaset, che sono ovviamente per una difesa arrembante, il più possibile arrembante rispetto alla strategia dei Vivendi Bolloré, e Berlusconi che dall'altro dice sì, però siate un po' più cauti, che alla fine bisogna che ci mettiamo d'accordo. Tu che dici, Carlo Alberto? Dico che il business della pay TV è un business, diciamo, in difficoltà, perché i modelli che arrivano dall'America, in particolare sto parlando di Netflix, vanno verso un modello flat molto profilato, che dicevo prima, quindi non basta comprare i diritti, bisogna comprare la lealtà del comportamento del cliente. Quindi i due investimenti vanno lato offerta e lato domanda, e questo lo dico con grande rammarico, insomma, gli amici di Mediaset non sono riusciti a farlo bene, non sono riusciti a farlo bene neanche quelli di Sky, per la verità, però insomma Netflix ha segnalato il modello. Secondariamente, il calcio è grandemente esposto agli alti e bassi del comportamento sportivo e delle decisioni di UEFA, per esempio. Già dall'anno prossimo, quando la stabilizzazione delle squadre italiane nella competizione sarà un pochino più chiara, potrebbe schiarirsi l'orizzonte. Però hai ragione, il problema è la pay TV come modello, che in questo paese ha distrutto valore da 25 anni. Non so cosa ne pensa Augusto su questo. Io ovviamente non sono drastico come te, nel senso che 25 anni fa ancora aveva appena cominciato, diciamo. Però detto questo, sicuramente da quando sono venuti fuori i nuovi modelli, la pay TV come prodotto da 50-60 euro ad abbonato, che diciamo va alla gran parte della popolazione, non è più immaginabile. Quindi rispetto a questo processo, chiaramente sistemare i conti di Mediaset Premium in una situazione così complicata e complessa, dove non solo Netflix ma anche Amazon, nessuno ne parla, ma insomma è entrata qualche giorno fa in Italia, per in 200 paesi nel mondo, con questi non combatti a darmi No, ma neanche ad armi che ti consentono di scendere in campo a dire la verità. Allora, grazie ad Augusto Preta, noi dobbiamo andare al giornale radio e torniamo dopo GR. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui alle 11:05 primi e 34 secondi, tornati in diretta con Parla dei Conti della Belva. Mario Seminerio. E Carlo Alberto Carnevale Maffè. E il vostro umilissimo servitore strecciante Oscar Giannino. Che cos'è questa risata? Neanche quello posso servitore dire. Servitore strisciante, è un'immagine abbastanza a voi, problematica. Cari diciamo. Amici, è così. Lo sapete che è così. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori? Ce n'è uno che mi sembra sicuramente utile da citare. Praticamente dice: voi siete liberisti, o vi definite tali, e poi promuovete la concentrazione. quindi non capisco come possa essere libero un mercato in mano a pochi. Ecco, questa è un'osservazione molto interessante, sì. Esatto, che ci permette di sviluppare il concetto. Forse c'è un problema di tecnologia che sta scavalcando la dimensione nazionale, esatto, oltre okay. ad altre cose. No? Questo determina un aumento della dimensione del mercato, di rilevante, precisamente. Esatto. Che è l'entità, diciamo, economica che si utilizza per calcolare la quota di mercato, la posizione rilevante di un'azienda o addirittura la posizione di monopolio, che però voglio ricordare che in termini strettamente economici non è in sé negativo. Ci può essere un monopolio efficiente e spesso nelle tecnologie questo è. L'importante è che non sia un monopolio abusivo e quindi che non abusi della sua posizione dominante per imporre per esempio sussidi incrociati o diciamo qualsiasi forma di deformazione della competizione. Però è molto delicato ed è per quello, signori, che insistiamo che la cosa più importante, la cosa più strategica è la competenza, il rigore, l'efficacia, la tempestività di un regolatore, che spesso non può essere nazionale quando il mercato rilevante appunto trascende i confini nazionali. Quando uno dice a cosa serve l'Europa, signori, serve penale a far sì che il diritto coincida con il perimetro corretto dell'economia e delle istituzioni, e questo serve. Se le nazioni sono troppo piccole per i fenomeni economici attuali, bisogna prendere atto che spesso la regolazione deve adeguarsi alle nuove realtà industriali. Questo va detto con chiarezza. Grazie per l'osservazione, che è molto interessante. Infatti, no, perché consente di chiarire al nostro ascoltatore, per esempio, che dal punto di vista tecnico la misura, l'ambito su cui si misura l'indice di concentrazione secondo il legislatore italiano nella questione di TLC e TV è il cosiddetto SIC, cioè la somma delle risorse delle imprese di televisione, audiovisivi, telecomunicazioni nel nostro paese. La legge Gasparri lo introdusse in realtà per fotografare una situazione e determinarla, quella del duopolio, chiaro? Allora, ha un senso? Sì che ha un senso, vi abbiamo spiegato che imprese di ambiti diversi convergono verso la realtà del settore, ma non ha senso farlo per il mercato domestico italiano, dovrebbe essere adottata come mercato di riferimento almeno europeo, perché il fenomeno di concentrazione è globale, ci sono tre players che hanno in mano i 2/3 del mercato del video on demand mondiale. Se entra anche YouTube diventa il 99,9 periodico, per capirci. Quindi il mercato di riferimento è molto più ampio di quello nazionale. Il problema è che allora, se c'è un'entità italiana che è debole, che non ha letteralmente i soldi, esatto, per entrare, allora o entra in un ruolo subordinato, ancillare, strumentale, eccetera, all'interno di un'organizzazione più grande che è necessariamente transnazionale, oppure soccombe. Se la reazione politica, per motivi che conosciamo perfettamente, è quella che non si deve toccare nulla, ma magari un bel giorno arriverà anche la cassa depositi e prestiti dei media e di cose del genere, noi siamo amabilmente, per usare un tecnicismo, fottuti. Ma non noi, i nostri soldi, esatto, in quanto contribuenti. Perché noi continuiamo a determinare questa sorta di autarchia di paese con le pezze al culo che non riesce a fare sistema e però deve difendersi sempre dal barbaro straniero, esatto, che arriva. E così sentiamo, non se ne esce. Sentiamo qualche ascoltatore. Mario da Savona. Mario, prego. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo semplicemente chiedervi, mi sarebbe interessante per me che riusciste a fare una trasmissione o una delle sue strisce quotidiane, Oscar, sì, sull'argomento crediti deteriorati delle banche, ma da un punto di vista che io non vedo assolutamente trattato. Quale? Cioè, da dove origina questo enorme monte di crediti deteriorati? Perché tutti lo liquidano con la crisi del 2008 e i comportamenti, diciamo, collusivi o irregolari di molti amministratori. Secondo me sarebbe interessante approfondire anche l'aspetto delle politiche commerciali che sui crediti sono state fatte negli anni 2000. Cioè, mi riferisco a quei manager che non, lasciamo perdere i casi di crediti dati agli amici degli amici o reati, guardiamo invece banche che non sono state coinvolte da quel tipo di problema, ma hanno comunque avuto negli anni 2000 delle politiche creditizie assolutamente folli, che hanno portato a dare molti più figli alle aziende di quelli che le aziende avrebbero dovuto avere secondo il concetto di merito creditizio. Questo argomento qua non viene minimamente trattato e molti di questi manager addirittura oggi ce li ritroviamo tipo a salvare le quattro good bank, a risolvere i problemi delle quattro good bank, e non mi sembra che li stiano risolvendo poi granché. Chiarissimo, è una domanda chiarissima. Io non esito a dire di sì, perché anche per esempio un'analisi, di questo ci sono i dati che vengono rilevati e pubblicati per classe di prenditori sul totale del monte dei crediti, consente di fare delle riflessioni proprio nel senso che lei auspica. Quindi grazie Mario, perché questa cosa la faremo senz'altro. Sentiamo anche invece come la pensa o cosa chiede Giuseppe, che ci chiama dalla provincia di Piacenza. Giuseppe. Sì, pronto. Io volevo parlare a proposito dei referendum. Referendum, sì. Referendum. Trovo che non siano completamente inutili e che non ci sia niente di più ingannevole per la democrazia dei referendum. Se mi lasciate 30 secondi vi spiego certo. Perché. Ci sono, prima di tutto, dei referendum che riguardano questioni personali, tipo l'eutanasia adesso potrebbe o il divorzio. Basterebbe fare delle leggi che diano la possibilità a ciascun individuo di scegliersi l'idea che ha, di scegliersi il percorso che ha. Poi ci sono dei referendum tipo la Brexit o quello che abbiamo fatto ultimamente che esigono una preparazione che non tutti hanno, per cui ci vuole una classe politica preparata a legiferare in modo per tutti. Poi ci sarebbero quelli che effettivamente servono, tipo quello del finanziamento dei partiti oppure della responsabilità dei giudici, ma sappiamo tutti come sono andati a finire. Se non convengono ai politici vengono disattesi, per cui a cosa serve il referendum? Allora Giuseppe, le faccio riflettere, che la prima sua osservazione è molto fumosa, non vuol dire niente su temi tipo bioetica eccetera. Una legge che dica ognuno può fare quello che vuole non si può fare in un ordinamento, non è una legge, non è chiaro. Quindi le idee un po' confuse sul primo punto. Sul secondo e sul terzo punto invece la seguo, perché sul terzo punto, poi sul fatto che abbiamo avuto un referendum, la RAI, si ricorda quello della RAI? Ecco, completamente eluso, finanziamento pubblico completamente eluso, è diventato contributo alle spese elettorali invece che finanziamento. Però su questo lei ha perfettamente ragione. Allora, detto tutto questo, vogliamo dire, prima di presentare, perché tra un minuto e mezzo ci interrompiamo di nuovo, caro Alberto e caro Mario, voi sicuramente siete per il ripristino dell'articolo 18. Io ve lo vedo in volto che siete per il ripristino del vecchio articolo 18. È vero, dite la verità. Beh, io sono per ridisegnare profondamente i rapporti fra azienda e lavoratore, questo sì. Diciamo, non scriverei un altro articolo 18, ma certamente riscriverei i patti di comportamento reciproco fra azienda e lavoratore. Quindi tu sei favorevole al testo, la cosa dice la CGIL. La CGIL dice, no, prendete la nostra proposta di legge, che viene presentata più o meno con le tue stesse parole, per un ridisegno profondo. Lo dico per rispetto per la CGIL, nella proposta di legge a corredo delle firme che sono state raccolte per i tre quesiti, su cui hanno raccolto oltre 3 milioni di firme, secondo me i giornali hanno silenziato tutta la campagna raccolta di firme della CGIL, a dirvi la verità va riconosciuto, sì. La proposta di legge contiene comunque anche cose molto interessanti, dico il cobuco perché ovviamente io non sono della CGIL, ma contiene un ampliamento delle dimensioni del mercato agli autonomi eccetera eccetera, certo. Questo va detto? Va detto, perché secondo me è un tema interessante, dopo questa grande indigestione un po' propagandistica del Jobs Act, secondo me tornare a fare una riflessione, magari non con referendum ma con pacatezza, su cosa vuol dire il nuovo modello di lavoro, io la trovo indispensabile, altrimenti continuiamo a non riuscire a capire i numeri della disoccupazione e della nuova occupazione e a scontrarci su voucher e su articolo 18. Quindi ben venga il dibattito se è sereno, lucido e se è coraggioso e in certi ambiti. Quindi vabbè, caro Alberto comunque dice meglio dibattito, non andare al voto per non fare il referendum. Mario che dice? Nei termini in cui si sta sviluppando chiaramente il dibattito su questo referendum, che sono la classica guerra di religione, penso che finirà male anche qui, cioè, perché di fatto questo sarebbe semplicemente, come dire, un ulteriore, poi vediamo come viene declinato, ma un ulteriore irrigidimento delle norme sul lavoro. Quindi alla fine poi il sistema si aggiusta nel senso che dove c'è rigidità lo aggira. E quindi temo che, come dire, il ritorno al passato, questo mi ricorda un po' il referendum sul punto unico di contingenza, ti ricordi? Però, no? Che quello fu veramente uno spartiacque. Però no? A dire la verità, va detto quel che va detto, Craxi non si tirò indietro, lo fece come il PD. Il PD ha fatto della scelta dell'articolo 18 il cardine della sua riforma. E l'ha spiegato in lungo e in largo. Adesso, senti, i parlamentari del PD, la stragrande maggioranza di loro, è come se quella scelta o non l'hanno fatta loro o gliela imposta una specie di virus, non si sa, da cui sono guariti, e preferiscono dire ha detto Poletti, meglio sciogliere la legislatura piuttosto che affrontare. Poletti Craxi è stato proprio... combatté apertamente e vinse tra l'altro. Quindi comunque, fatta questo resumé, sì. Dopo la pausa torniamo a parlarne con Marta Fana, PhD candidate in Economics and Science a Sciences Po a Parigi, e che ha un punto di vista diverso dal nostro, e col quale però confrontarsi apertamente. Sì, noi preferiamo confrontarci apertamente e non scappare sciogliendo la legislatura per questo. Se la legislatura finisce, deve finire per altro, ma non perché, come ha detto il ministro Poletti, così ci evitiamo di parlarne di questo referendum. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia ne mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci qua, torniamo, abbiamo introdotto il tema dei tre quesiti su cui CGIL ha raccolto oltre 3 milioni di firme, l'ufficio centrale della Corte di Cassazione per il referendum ha dato il suo parere di conformità alla legge, tutto bene sia per numero di firme, molte di più in realtà, del minimo necessario, che per come i quesiti sono scritti rispetto alle norme che intendono abolire. Il quesito centrale è quello del ripristino della vecchia formulazione della reintegra nell'articolo 18, anzi, dubbio di costituzionalità avanzato da alcuni esperti, non il ritorno al vecchio testo, ma l'estensione del reintegro del giudiziale sopra i 5 dipendenti e non sopra i 15 come era prima. E con noi, l'ho presentata già prima, Marta Fana, grazie di essere con noi Marta, dici... La tua opinione, perché è meglio farli questi referendum e perché sarebbe meglio dal tuo punto di vista che vincessero i proponenti? Ma innanzitutto buongiorno e grazie ancora per l'ennesimo invito. Ma i referendum secondo me sono molto molto importanti, quindi ovviamente questa volta altro che basta un sì, per una ragione di fondo, che è quello proprio del diritto dei lavoratori ad avere una tutela reale sul lavoro, quindi per quanto riguarda l'articolo 18. E poi però appunto secondo me sono molto rilevanti gli altri due quesiti, uno quello sui voucher, di cui ne abbiamo discusso anche in questa trasmissione varie volte, ma anche quello della responsabilità negli appalti, nel senso che la continuità lavorativa e quindi in qualche modo il diritto e la tutela dei lavoratori, il diritto di fatto di una prelazione di continuità, è rilevante soprattutto nel momento in cui ci ricordiamo che in Italia l'operazione tra appalti, subappalti eccetera è uno dei fenomeni che più cerca in qualche modo di eludere quelli che sono i contratti nazionali eccetera, no? Sappiamo, c'è questa specie di scatole cinesi poi in realtà che si vanno a realizzare fino ad arrivare a quelle che sono le cooperative spurie, e di conseguenza diciamo crolla tutto quello che è il diritto del lavoro al loro interno, che appunto se li mettiamo tutti e tre in collegamento, le cooperative sarebbero col subappalto le uniche che non potrebbero usare i voucher, no, all'interno dei contratti, ma dove invece le condizioni lavorative, diciamo contrattuali, organizzazione del lavoro eccetera, sono addirittura ben peggiori di quelle che sono garantite attraverso proprio lo strumento dei voucher. I referendum in questo senso quindi cercano di ristabilire diciamo un principio di realtà anche costituzionale, se ci vogliamo collegare a quello che è stato il referendum di adesso, dove appunto la centralità del lavoro, che non vuol dire articolo 18 e allora il tempo indeterminato, il lavoro fisso, no, è soltanto dire abbiamo dei diritti nel momento in cui stiamo lavorando per delle aziende, quindi la debole la società, e poi cioè, se voglio cambiare lavoro diciamo è un incentivo mio, no, a seconda delle opportunità che si aprono eccetera, però i diritti nel momento in cui si lavora sono rilevanti. Sono rilevanti in termini, quello che una volta si chiamava la democrazia economica, anche in termini di quello che è il controllo del lavoro e quindi la possibilità di incidere sull'organizzazione del lavoro, cosa che per esempio con i voucher, ma anche senza la responsabilità tra committenti e società appaltatrici, viene completamente meno nei processi diciamo di produzione su tutti i settori economici. Io ti faccio, mi metto nella parte del diavolo, Marta, e ti faccio le due osservazioni che la prima è stata anticipata da Mario prima ed è relativa al quesito articolo 18, la seconda è un'obiezione che classicamente fa per esempio il professor Ichino a chi fa le considerazioni che hai appena svolto tu sul voucher. E osservazione di Mario, attenzione, il ritorno al testo precedente della reintegra, il mercato del lavoro italiano ci ha dimostrato negli anni come reagisce quando arrivano, si torna a rigidità ancora maggiori. si organizza in maniera tale come un essere vivente che tende ad aggirarle, per così dire. Sì. Uno, cosa dice il professor Ichino a chi fa il tuo ragionamento sui voucher? Dice: ma Marta, mettiamoci d'accordo, o i voucher, la cui estensione è stata inopinatamente, ha fatto emergere lavoro nero primo di massa, e allora in questo caso ridiscutiamone a un tavolo per vedere se riusciamo a distinguere qual è la componente di lavoro nero emerso, che in questo caso va difeso rispetto agli eccessi, ma ridiscutiamola così. Oppure ditemi come secondo voi si spiega il suo successo, solo per abbattimento di costo, cioè non è davvero lavoro nero emerso? Come rispondi a queste due obiezioni, Marta? Ma parto dall'ultima e poi intanto saluto anche Mario. Allora, sui voucher noi ne abbiamo già parlato. Il rapporto più approfondito su diciamo, l'utilizzo dei voucher ci dice che i voucher non fanno emergere il lavoro nero, ma anzi in qualche modo ne producono, perché appunto no, si dà un voucher 2 per in realtà poi 8 ore di lavoro che vengono pagate in nero. Quello che sappiamo è che i voucher sono utilizzati oggi tantissimo, sono circa 400.000 i casi appunto, su un'analisi di microdati IMSS, che vengono utilizzati da imprese per i loro già dipendenti, quindi lavoratori dipendenti, sì, che poi vengono pagati no, extra, quindi so, straordinari, esatto, giornate extra con i voucher. Quindi di conseguenza questo non è un problema. Il problema dell'emersione non si pone con i voucher. L'emersione si combatte non depotenziando, diciamo, tutti quelli che sono i controlli in Italia, perché poi sì, aggiriamo le regole, però ovviamente ogni volta togliamo sempre pezzettini della funzione di controllo che è amministrativa, che è un problema, perché anche quello ci dicono è semplificazione. Da questo punto di vista però, allora, cosa facciamo? Ma io ho notato un'altra cosa, sono usciti anche i dati sulle comunicazioni obbligatorie, sono andata a guardare un po' la serie dal 2012 in poi, c'è una fortissima sostituzione secondo me tra quelli che sono i contratti a termine da 1 a 3 giorni con l'esplosione con i voucher. Questo significa che noi abbiamo degli strumenti, quindi delle tipologie di contrattuali flessibilissime, perché un contratto a termine da 1 a 3 giorni fatto anche attraverso i part time, che è possibile, garantisce una flessibilità e quindi, diciamo, in qualche modo è vero che è un contratto subordinato, quindi l'impresa dovrà comunque pagare dei contributi, dovrà comunque riconoscere, no, malattia, ferie, diritti in qualche modo, però la possibilità di, dopo un giorno, dopo 12 ore di lavoro, di licenziare senza, esatto, quindi perché comunque sia c'è una questione produttiva, l'emergenza produttiva, e il tempo determinato è possibile farlo in questi termini. Di conseguenza secondo me è una, cioè, appunto, se vogliamo dire che le imprese non devono pagare, devono avere dei costi sul lavoro bassissimi, non devono pagare, non devono avere nessuna responsabilità sociale e previdenziale nei confronti dei lavoratori, allora utilizziamo, continuiamo a utilizzare i voucher, altrimenti possiamo benissimo sostituirli, cioè rendere flessibile ma con una stabilità, diciamo, reale. Dall'altro lato, per andare alla prima domanda, girare le regole, beh, il problema è che in Italia abbiamo sempre lasciato che il capitalismo italiano giochi in questo modo. Non so come dire, qualsiasi tipo di regola la giriamo. Abbiamo messo i voucher per far emergere il lavoro nero, ne hanno fatto ancora di più. Quindi, secondo me, è il momento in cui la rigidità deve essere tale, cioè io sono poi una molto rigida di per sé. Per si dire, vede, no, si vede, ma sei bella rigidina. Su questo, Marta, partita una risata spontanea. Cioè, te la sei andata a cercare scusa, oggi. Scusa, per caso tu sei un capricorno? Sì, no, infatti mi mancava la battuta, mi sembrava troppo seri stamattina. Qui si chiede addirittura il tuo quadro astrologico. Volevamo sapere se sei per caso un capricorno. Sulla rigidità. No, io sono toro. Ah, ho capito. Vabbè, più o meno. No, da vabbè, questo punto di vista, dai, torniamo seri. Sì. Da questo punto di vista, quindi, cioè, dobbiamo imparare dobbiamo fare una scelta. Vogliamo continuare a competere, fare finta di poter competere sul costo del lavoro, o forse possiamo indurre, e ovviamente non bastano soltanto le leggi sul diritto del lavoro, attraverso quello che è tutto il pezzo che ci manca dal punto di vista produttivo, che sono gli investimenti. E sappiamo benissimo che tutti gli studi di economia, quindi accademici eccetera, dicono che per avere delle imprese efficienti dal punto di vista degli investimenti, l'innovazione eccetera, questo è vero se e solo se appunto i contratti di lavoro, la stabilità lavorativa e quindi anche la fidelizzazione, se vogliamo, in un modello del genere, dei lavoratori è alta. Mario, però ti tocca replicare. Sì, no, io allora io sono d'accordo sul discorso che il voucher non ha avuto la funzione principale di fare emergere il nero. Questa cosa l'ho detta e l'ho scritta più volte, quindi sono d'accordo con Marta. Però io rilancerei con un SMS arrivato da poco che secondo me è abbastanza paradigmatico. Dice: è facile per voi intellettuali, ovviamente tra virgolette, ben pagati, disquisire dell'articolo 18, provate a lavorare voi da precari a 1000 euro al mese, i giovani scappano in massa dall'Italia per la troppa precarietà, rimangono i vecchi e gli economisti da salotto finché dura. Allora, cosa c'entra l'articolo 18, mi chiedo e chiedo a chi ci ascolta, con il discorso che le retribuzioni sono troppo basse? Cioè, abbiamo un problema di costo del lavoro eccessivo, perché persiste un cuneo fiscale terrificante. Su questo discorso il sistema cerca di liberarsi dell'eccesso di onerosità ricorrendo a questi espedienti, cioè ad una interpretazione, tra virgolette, distorta dell'uso del voucher. Dopodiché il voucher si diffonde a quegli strati della popolazione lavoratrice che sono unskilled, no? Oppure in contesti dove il costo del lavoro è eccessivo rispetto al valore aggiunto. Io sono assolutamente d'accordo con Marta sul discorso che questo paese ha bisogno di investimenti, di un salto di tecnologia. Il salto di tecnologia e gli investimenti necessitano di stabilità del rapporto di lavoro costruito nel tempo tra il lavoratore e l'azienda. Però qui stiamo parlando anche di una progressiva risalita nelle skills, cioè nelle competenze. Il voucher in questo momento insiste su concetti di lavoratori che sono despecializzati, perché questo è l'ambito, e però va a colpire anche contesti in cui il costo del lavoro è troppo alto. Quindi, e finisco il pippone, il pistolotto, che c'entra l'articolo 18 con una elevatissima onerosità strutturale del costo del lavoro in Italia, dove il valore aggiunto è basso? Domanda per Marta, ma domanda anche per tutti quanti, diciamo, come riflessione. Sentiamo Marta. Secondo me ci sono due punti. La questione, no, delle competenze, skill e unskill. Io direi in Francia posso dire che persone che fanno dei lavori molto, diciamo, a bassa qualifica, si sarebbe detto, non sono pagati a voucher, sono pagati con contratti subordinati in cui il costo del lavoro è alto tanto quanto in Italia, hanno un salario minimo di 1400 euro al mese, cosa che in Italia non vediamo. Quindi si scappa dall'Italia perché esistono i voucher, ma venendo in Francia si ha per lo stesso lavoro un contratto a termine, anche a tempi, il CDD o il CDI, che garantisce tutti quei diritti nonostante le competenze, diciamo, la qualifica rispetto al lavoro svolto è abbastanza basso. Quindi questa mediazione si può fare quindi sia distribuendo a livello, diciamo, di base, quindi no, quella che è la distribuzione funzionale, salari, profitti, e quella che è invece la tassazione, perché è un'altra cosa che è abbastanza, secondo me, evidente in Italia. È vero che il costo del lavoro è alto, però i margini di profitto non è che siano così bassi, perché se guardiamo poi quelli che vengono definiti, no, i lavori poco qualificati, io penso sempre alla logistica, che è uno dei settori in espansione, 8,9% del PIL italiano, margini di profitti altissimi e condizioni di lavoro, sia in termini di orari lavorati, di usura, no, lavori usuranti, eccetera, è elevatissima, nuova forma di sfruttamento in settori dove non hanno il problema, ok, che non riescono a rimanere a galla, hanno casomai il problema che vogliono fare ancora più profitti. Quindi è sempre là, c'è sempre questo grande conflitto poi che si, diciamo, risolve in quello che è il rapporto di forza anche messo a disposizione dalle regole del gioco. L'articolo 18, ma io dico, cioè, c'è un punto che è quello, diciamo, produttivo economico, e l'altro è la tutela, appunto, dei lavoratori. Secondo me non sono in conflitto queste due cose. Perché anche là, la quota, se vogliamo, di onerosità, quindi le tasse sul lavoro, il costo del lavoro è alto, ma se noi riusciamo a fare e creare in qualche modo un'economia dove la produttività totale è molto più alta, quel costo, se vogliamo, relativamente diminuisce, c'è poco da fare. Uh-huh. Quindi è sempre là. Certo, se manteniamo, cioè se diciamo che da H&M, ok, il costo del lavoro è elevato, quando invece non è vero. È vero rispetto all'Italia, ma poi stiamo parlando di un gruppo, come può essere Amazon, come può essere Google, dove le tasse le pagano comunque fuori e i margini di profitto rimangono fuori e non vengono reinvestiti in Italia. Quindi, diciamo, è un bilanciamento molto asimmetrico e, cioè, non so, io per rispondere anche al messaggio, non so, da salotto e ben pagati non so chi, perché anche i ricercatori enormi forme di precarietà, sì, esatto, soprattutto per chi voucher. Quando parliamo dei voucher, la gente si deve ricordare che noi abbiamo dei voucher oggi utilizzati nelle pubbliche amministrazioni, sì, abbiamo visto i vari casi. Utilizzano persino la RAI, abbiamo scoperto, come sì, no. Ma voglio dire, uffici di bilancio, di programmazione all'interno dei comuni, dove un pochino forse di competenze bisogna avere, che non è un problema di costo del lavoro, è un problema che c'è il blocco del turnover, è il problema che c'è un patto di stabilità interno fortissimo rispetto ai comuni, eccetera. Ok, siccome il tempo è finito, io oltre a ringraziare Marta, su una cosa ti devo correggere però, perché quando hai fatto un disinvolto passaggio, perdonami, sui profitti delle imprese. Esatto, se andiamo a vedere le serie storiche, tanto dei diverse campionature di imprese su RS Mediobanca, A, B, quanto le rilevazioni Banca d'Italia su destinazione da reddito lordo imprese per remunerare diversi fattori, noi siamo a un minimo storico di destinazione in realtà per le imprese stesse, da reddito lordo delle imprese, e a una percentuale invece massima per quello che riguarda il lavoro. Questi sono, lo dicono i numeri, Marta, e quindi il problema c'è per le imprese, perché sono i numeri ufficiali. Comunque un abbraccio e grazie a Marta Fan, a cui oggi siamo riusciti a far dire sorridendo: sì, è vero, sono rigida. E questa cosa, Radio 24, la mia trasmissione, no Marta, sto scherzando, ma la rimanderò in onda dicendo: ma ecco Marta che a me. No, grazie sempre, perché questo deve essere il tono del confronto. Alla prossima a te, e noi torniamo tra un minuto perché abbiamo con noi Udo Gumpel. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Perché mettiamo, lo sapete cari ascoltatori, me lo ricordo ai miei distratti qui compari in studio che guardano pubblicità scollacciate mentre noi andiamo fanno dei risolini, capito? Perché mentre qua si parla di cose serie, loro stanno lì a guardare cose scollacciate. Ma se stavo leggendo l'intervista alla Fedeli, adesso pubblicità scollacciata, e quella è la cosa scollacciata, l'intervista alla Fedeli, scusa, oscena, l'intervista alla Fedeli, pubblicazioncelle che vedete qui, cari scusate, ma voi ve lo ricordate il Cornello Buttiglione? No, ecco. Ma in realtà la musichetta noi la mettiamo perché ogni settimana in questo angolo riprendiamo in mano una dichiarazione, un'intervista, può essere sulla politica, sulla comunità, che ci ha molto colpito, e chiediamo al nostro ospite di chiarircene le portate. E questa settimana, anzi ieri, noi abbiamo letto un'intera pagina sul Corriere della Sera che ci ha lasciato sgomenti, perché Federico Fubini intervistava un economista tedesco, Michael Fuest, economista tedesco, cioè una persona molto importante in Germania, molto ascoltata. Sì, d'accordo, però insomma la tesi era: oh italiani, fuori, elevatevi dai piedi, anzi, noi non ci fidiamo più di voi, perché elevatevi dall'euro, ma non ce la fate, non ce la volete, è evidente, non regge Renzi, non reggono le riforme, e siete lì, dovete fare il decreto per gli aiuti alle banche la prossima settimana, li volete tutti, ma allora elevatevi dai piedi, no, non ce l'avete la forza, il fiato. Io sono rimasto, a dire la verità, i toni non erano così estremi, ma la tesi era chiara, cara Italia, pensaci, diccelo, vuoi uscire però esci, però almeno sii coerente. Ecco, questo un invito così brutale, ci siamo detti, ma è possibile davvero che la Germania abbia questa idea, oramai la Germania ufficiale dell'Italia? E allora ci siamo detti, chiediamo al nostro amico Udo Gumpel. Ciao Udo e grazie di essere con noi, come stai? Sto benissimo, sono qui a Roma nel solito caos, la radio è quello che è, il traffico ancora, le buche ci sono, la moneta è tutto come prima. Insomma, non è cambiato. Esatto, esattamente. Ma se ti diverti prima, un mondo a stare a Roma, dai, mi Udo. Ma pensa che noia mortale a Francoforte, in questa ordinata, è pulita. Dici ma io non sono di Francoforte, io sono di Amburgo. Hai ragione. Noi abbiamo solo da temere una cosa: l'innalzamento dei mari, però ad Amburgo alzano ogni X anni le dighe di 5-10 metri, e alla fine Amburgo non vedrà più il sole per le dighe altissime, però proteggeremo anche contro il mare a 50 metri. Ricordo ai nostri, come il Mose, ai nostri ascoltatori che Udo Gumpel è un giornalista, ma essendo un giornalista tedesco in realtà poi ha una specializzazione in fisica, vero? Ecco, qui stiamo parlando di una persona, diciamo, che sa di quel che parla e ha un certo rispetto venerato dei numeri, perché l'ho praticato nella vita prima del giornalismo. Ma davvero ci volete sbattere fuori? Assolutamente no. È un pochettino come la voglio dire, un po' come a scuola, no? Ti succede che ti danno un cartellino giallo profondo scuro per farti capire che nessuno fa paura la uscita dell'Italia dall'euro semplicemente perché è troppo grande per essere salvata, questo sappiamo tutti, no? E la politica italiana ha deciso di non volere le riforme. Adesso sembra un ritornello stanchio, in Italia non ascolta più nessuno, però la strada è segnata. Se adesso non è il risparmio di una Camera, no? Questo secondo me è un argomento ridicolo, ma si tratta semplicemente di accelerare la pratica legislativa del Parlamento e soprattutto di dare centralità al Parlamento. Perché con le due Camere, con i tempi che si perdono, il governo fa decreti in gran massa, cioè le leggi che nascono in Parlamento col vecchio sistema erano diventate quasi impossibili, lo sanno tutti, anche i difensori, perché a loro gli piaceva questo tran-tran, questo lobbyismo, il transatlantico, le trattative. Allora, adesso abbiamo già il prossimo referendum anteporta, se è quello dell'abolizione del Jobs Act, e vi garantisco, se si abolisce il Jobs Act con quelle piccole riforme del mercato del lavoro che furono introdotte 10 volte di più 20 anni fa da Schröder e hanno dato un effetto immenso in Germania, allora al Jobs Act noi possiamo dire che è troppo timido nelle sue proposte. Allora, se però si abolisce anche questo, significa l'Italia veramente ha una chance che tende verso zero e di rimanere nell'euro. E allora vedi che ci vuoi cacciare, dai. Ma non vi voglio... Guarda, sarebbe un grande guaio, perché se l'Italia esce probabilmente anche la Spagna, il Portogallo, e la unica domanda... Non c'è più l'euro, dai, non c'è esce più. Esce anche la Francia o ce la fa con un nuovo governo a mettere finalmente... un freno allo statalismo, alla nazionalizzazione, perché questo è il grande problema dell'Italia, e la mancanza di competitività, una parola odiatissima qua, no? Sembra la schiavitù massima, ma andate nei paesi in Europa che hanno i massimi indici di competitività nella globalizzazione, Danimarca, Germania, Svezia, Norvegia, ma sono paesi dove la gente vive nelle cantine incatenate o sono paesi del welfare, terre di schiavi, come è noto, terre di schiavi gementi, esatto. Ma io ho sentito così tante sciocchezze, non volevo usare un francesismo, sul Hartz IV, che sarebbe questa legge del welfare in Germania. Ma scusate, una famiglia di 2 adulti con 2 bambini prende dallo Stato sine die, ovvero per sempre, 1.500 euro netti, cioè, lì è più pagato la casa, più pagato l'affitto, più pagato tutte le spese già extra. Questo è solo il contante. Ma questo vi pare una schiavitù tremenda? No, sapete cosa chiede la Germania da qualche anno in cambio di questo, di questa pioggia di soldi che peraltro ricevono 4.500.000 tedeschi? Chiede la disponibilità di accettare un lavoro proposto dall'ufficio, neanche cercaselo. Loro devono solo dire sì. Casomai mi venisse una lettera con un invito, io ci rispondo. Ma immaginatevi, io vi posso dire, mio figlio primogenito lavora in un'azienda che organizza queste cose. Voi non avete idea dei trucchetti, non solo dei soliti, diciamo, stranieri trapiantati in Germania, dei tedeschi autoctoni, che se ne inventano per non lavorare, per mantenersi, per farsi mantenere lo Stato. Ma che bello, vedi che siamo una grande nazione, noi, Europa. Però la Germania ha accettato questo, di dare questo, perché dice, ok, questi 4 milioni, tra questi sono 2 milioni fannuloni, sono fancazzisti che tentano di vivere a scrocco del denaro pubblico, però gli altri 2 milioni hanno veramente bisogno. E dato che vogliamo sostenere, anche per dettame della nostra Costituzione, questi altri dobbiamo andare avanti. Allora, l'Italia vorrebbe pubblicamente, l'Italia sindacale, io so che tu la ami tanto, l'Italia statalista vorrebbe avere gli stessi benefit senza pagare una lira. Allora, rifacciamo un attimo al famoso dettame di al detto di una signora che è molto poco amata, la Seccia. Allora, ragazzi, in Italia il socialismo è finito, le prebende sono finite, perché sono finiti i soldi degli altri. Sì. Questo è il problema. E allora, se questo grande economista, che peraltro l'ho conosciuto anche qui a Roma in un dibattito molto acceso sulla questione, sì, mette un paletto, lo dice, ragazzi, alla fine del 2017 quando Draghi finirà con il quantitative easing, ovvero stampare denaro, i 10-15-20 miliardi che si stampano a favore dell'Italia ogni mese, ovvero il debito italiano nuovo, è stato fatto a gratis, regalato, questo finisce. E allora cosa succede? Salgono i tassi di interesse. A questo punto già abbiamo nato una fuga del capitale dall'Italia. Neanche sotto Berlusconi in novembre 2011 era a tale livello. E allora perché? Che cosa sono? Sono investitori esteri che avevano titoli di Stato, 60% dei titoli di Stato comprato dall'investitore estero, mica sono gli italiani di fidarsi, mica gli italiani si fidano del proprio Stato, mica lo finanziano come i giapponesi. No, qui sono investitori esteri, ma chi sono questi investitori esteri? Degli ebrei con nasi adunchi che vogliono sfruttare l'Italia? No, sono fondi di pensioni, sono i famosi firefighters della California, sono le persone, gli statali di altri posti, che però sono obbligati a questo punto vendono, disinvestono ed escono dal mercato. Esatto, italiano. Ma sai perché vendono? Perché non trovano occasioni da comprare in Italia. Dunque tutta questa storia, ma le cavalette straniere rubano le nostre industrie. Un corno, non investono abbastanza, perché alla scadenza del titolo italiano non ricomprano un nuovo titolo, esatto, e se lo portano a casa il denaro che avevano investito. Finora ci salva Santo Mario Draghi, ma tra un po' non ci sarà. Io devo dire che io ringrazio la chiarezza, come sempre, con cui Udo Gumpa ha interpretato quello che ci diceva l'economista ieri, richiamando l'Italia ai suoi doveri. Naturalmente questo suscita l'incazzata reazione di molti ascoltatori, dice: ci dobbiamo far dire da un tedesco che adesso sarebbe Draghi a fare il regalo. Loro hanno approfittato dell'euro, loro hanno avuto un enorme regalo, ma questo noi non mettiamo in conto. La mia opinione è che io seguirei Udo Gumpel anche nelle fiamme dell'inferno. Ve lo dico perché il modo con cui, una sola correzione da farti Udo, perché la quota dei detentori intermediari bancari, ma anche in generale corporate del stranieri del strutturale del debito pubblico italiano, non è più 60 loro e 30 noi, è il contrario, sono più di 60% sono gli intermediari, le famiglie italiane, e oltre il 30% gli stranieri. Però su target 2, su cui ci sarebbe da discutere, perché in target 2 c'è molto dentro col QE, è molto diverso da prima, che cosa dice e cosa non dice quindi il sistema di target 2, le cose stanno esattamente come ha detto Udo Gumpel. Ripeto, io lo seguirei anche all'inferno per la chiarezza con cui parla. Un abbraccio e grazie a Udo. Noi torniamo, andiamo verso Renato Cifarelli e l'indicazione da parte del nostro collega imprenditore su cosa in realtà bisogna davvero lamentare anche questa settimana. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... della belva. Ed eccoci qui tornati, cari ascoltatori, per questo ultimo parte della nostra belvata di questo sabato 17 di dicembre, e con noi Renato Cifarelli, come stai? Bene, voi? Noi siamo reduci da un'esaltante lezione fattaci da Udo Gumpel, e ci stiamo rotolando dalle risate, perché gli diamo ragione, ma ci fa anche ridere. Oggi ho saltato, ascolterò il podcast. Esaltante. Allora, che ci dici, Renato? Senti, so che oggi si è parlato di referendum sul famoso articolo 18, eccetera. Allora, premesso che di mestiere faccio l'imprenditore, questo... So che già ti spaventa, perché quando uno fa le premesse di solito sta per buttare una bomba. Allora, no, premesso che io faccio l'imprenditore di mestiere, e premesso che c'è questo referendum davanti, vorrei fare un appello ai miei colleghi, perché ultimamente, per fortuna, la nostra azienda sta assumendo, quindi sto facendo un po' di colloqui, ho rapporti con un po' di persone, eccetera. E vorrei fare un appello ai miei colleghi di essere professionali nei confronti dei loro collaboratori, vale a dire, cioè stai dicendo che non bisogna fare come te, che tocchi la gamba alle ragazze. Io non tocco molto le gambe alle ragazze. Molto? Vabbè, dai, una battuta. Perdona. Tocco le gambe ai ragazzi. Ah, okay. Che... sei finito. Va bene, andiamo, torniamo seri. Sono moderno, quindi. No, quello che dicevo è che incontro un sacco di gente che trova le aziende che si stanno approfittando un po' troppo molto spesso di alcune cose come i contratti a termine e cose di questo genere, dando soprattutto quello che ho notato è che molto spesso le aziende sono poco, secondo me, professionali, perché danno poco feedback alle persone anche quando fanno i colloqui, e molto spesso non danno una situazione di quello che sarà il futuro della persona alla scadenza del contratto a termine, vale a dire aspettano sempre all'ultimo giorno, cosa che secondo me non fa altro che incitare le persone che poi andranno a votare al referendum a votare contro gli sporchi imprenditori cattivi. Però è interessante questo tuo spunto, cioè adesso non voglio parlare di un'autocritica, è una riflessione però critica sul fatto che che ti stavo dicendo, come l'impresa interagisce con chi si candida a venirci a lavorare. È chiaro che se tu incentivi l'opportunismo, assolutamente, bisogna riscrivere i patti, ma non quelli legali, quelli organizzativi tra impresa e lavoratore. Ha sacrosanta ragione Renato a ricordare il dovere dell'impresa di mettere sul tavolo una prospettiva chiara, in modo tale che non si aspetti l'ultimo giorno con vincoli legali, ma ci sia un vincolo organizzativo, un vincolo strategico al patto di lavoro, prima ancora che al contratto, al patto fondamentale, no? Al patto di lealtà professionale. Non so se era questo che volevi dire, Renato. No, ma secondo me è una questione, allora, intanto di rispetto, etica, ma è una questione di professionalità anche. Allora, c'è un vecchio detto che dice: se tu paghi noccioline hai delle scimmie, no? Allora, se noi andiamo verso Industria 4.0, vogliamo più cervello, più persone che ci mettono tutto ciò che hanno da dare all'azienda, eccetera, eccetera, anche l'azienda dalla sua parte deve avere un atteggiamento più proattivo, più costruttivo, e soprattutto dare delle prospettive di crescita, delle prospettive di formazione, deve cercare di farli crescere questi benedetti persone. Poi purtroppo è evidente che non è che possiamo pretendere di avere tutti Einstein a lavorare in azienda, anche perché persone enormemente brave poi alla fine l'azienda se la fanno, no? Però bisogna cambiare un po' atteggiamento. Io vedo con i voucher, gli stage, i contratti a termine, che molte aziende negli ultimi anni, pur nell'incertezza, che io capisco benissimo perché faccio anch'io quel mestiere lì, pur nell'incertezza che c'è di mercato in questi anni, se ne sono approfittate troppo. Senti, e questa è una cosa che ci potrebbe portare a un atteggiamento nel referendum che potrebbe essere negativo. È la sconfitta. Ma io ti ho solo una domanda da farti. Giura che lo pensi tutto l'anno e non solo perché adesso si sta avvicinando a Natale, questo discorso che hai fatto da pastore evangelico? Giurami no, che... No, io, guarda, la mia azienda è famosa nella nostra zona perché dicono che è l'unica che quando uno ci manda il curriculum noi rispondiamo a tutti, ringraziandoli di averci mandato il curriculum per lettera firmata da me. No, perché secondo me è una questione di rispetto, cioè una persona che ha perso 10 minuti per mandarci il curriculum, sottoporre la sua candidatura alla nostra azienda, merita 5 minuti di rispetto da parte dell'azienda per avere una risposta. Però sai, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole. No, per carità, ribadisco, ci hai sorpreso, ma positivamente, perché come costruire consenso, per così dire, fiducia intorno all'idea del lavoro attraverso questa modalità, per cui l'impresa sia più proattiva e più rispettosa, è veramente una cosa che non mi aspettavo, ma te ne ringrazio per questo e ti segnalo, perché manderemo questa parte a Radio Maria per ovviamente stiamo scherzando. Abbraccio Renato e abbraccio Mario e abbraccio a Carlo Alberto. Ciao a tutti. Ciao. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposto